sole. Vidi una donna piangere d'amore, piangeva per il suo Jordi. Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro, denaro. Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro, denaro. Così lo impiccheranno con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro, denaro, denaro, denaro, denaro, denaro. Che erano Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendo. Suo sorriso, non ha 20 anni ancora. Cadrà l'inverno anche sopra il suo viso. Potrete impiccarlo allora. Yeah.